Rimani qui, scende la sera, sopra di noi si poserà. E aspetteremo così la primavera, solo se vuoi ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono, ma ora so. È amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu solo senti e vedere ciò che vedi. Chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Rimani qui, non sei da sola, se partirai ti seguirò. E ce ne andremo così, senza paura, tempo per noi si troverà. Mi perdo dentro ai tuoi sogni che mi avvolgono, ma ora so. È amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu solo senti, vedere ciò che vedi. Chiudere la realtà dentro la tua isola, non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. È amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi. Chiudere la realtà dentro la tua isola, non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, è nascosto sul fondo dell'anima.